radio, non siete la radio, dai, vuole centrata. Non sei in frequenza, Tino, mi sembra. Ma tu lo puoi guardare o robe se veramente la M si è centrato? Aspetta un attimo il telefono, scusa. Va bene, ciao Eugenio, anche a te, ciao. No, devo smontarla, devo portarla a controllo, dai, non va bene. E allora c'è un bug però. Adesso va bene. Vabbè, me coglioni. Bene, adesso va bene. Mi apro per me un attimino, riprendo subito. Beia. Ciao G, riprendi, vai. C'è Claudio, fate riprendere a Claudio che mi sembra. E aspetta, adesso ho rilanciato il giro, vai G. Beia, io da solo, non c'è problema. Ciao Bulldozzo, ben risentito. E niente, rilancia a Muros che è lì un attimino formeggiato da un po'. Va bene, io sono entrato adesso, non sapevo neanche che c'era. Vai Claudio, chiodo. Ehi, guarda, dai, se è così è meglio, lo lascio così, dai. Scusate che devo smontare tutto e poi nel caso ritorno più tardi, eh. Ah, va bene, ok, va. Claudio, adesso il segnale come prima ero 4, mi hai detto. Tu sei Radio 5, Santiago 6. No, già va bene così, va. Chi c'è? Doppio Roma, anche avanti, doppio. Ehi, dai, stavo entrando per salutarvi, dai, che sto chiudendo. Ciao Massimiliano, dai, sono tutta la sera alla radio, non ho più gana. Saluto tutti cordialmente e vado a vedermi il telegiornale. Cava cava e cava cava, buonasera a tutti. Ciao, allora Gianni, ci sentiamo, buona serata e buon continuo di giornata. Avanti Lucaria. Luca, rilascio più di mai, vai oggi. Ciao, chi è andato via? Sto facendo una cosa qua, ho cambiato canale, mi sembra. Vabbè, niente, ciao Doppio Room, se mi si ascolta ancora. Niente, ciao anche a Tino, ciao a tutti quelli che se ne sono andati, tante cose belle, buon Natale, buona Pasqua e tutte cose. Ciao G, ciao, ero impegnato a staccare la radio, che ho fatto un ulteriore prova, ma non va bene. Tino Muscolo, mamma mia com'è tu. Sì, c'è Ricca, ma è foto, non ne hai altre, solo queste due, c'è. Oh, già uso Facebook, non sono così vecchio, io sono Instagram. Guarda, non rispondo. Ah, scusa, su Instagram. C'hai un amico in comune con me, un ballerino. Se vuoi dire solo il nome o non si può dire neanche il nome? Certo si può dire il nome, si chiama Giovanni, è molto alto ed è un ballerino di latinoamericano. E inizia con la il cognome, se inizia con la capisco chi sia. Sì, inizia con la, perché mia figlia balla nella stessa scuola dove balla lui. Capisco, è un venditore di bassotti anche. Bravissimo, ed è anche un venditore di uova di gallina. E anche di droga, perché l'ho comprata da poco. È buono. No, balla nella stessa scuola di mia figlia là. Conosci anche Alessandro e Caterina per caso? No, io. Tua figlia, non so, tu? Dipende, perché a Predanieda ce ne sono un paio di scuole di ballo, eh. Cappa. No, vabbè, mia sorella ballava con Alessandro e Caterina, poi, non so, ha fatto la scuola lì, là. Ah, quello del vialetto stai dicendo tu, là? Meglia. No, questo c'ha la scuola di ballo, lo sai dove c'è l'angelo azzurro? No, non ce l'ho neanche presente. Io l'auto. Dove c'è Zulino Auto, non lo sai? Ah, sì. Di fronte c'è l'angelo azzurro, poi c'è un negozio dove un deposito di bare e poi a fianco c'è la scuola di ballo. Ma da Giuseppe? E io da Giuseppe, sì, bravissimo. Ma detto, bravo, vedi su Bittingo. Cosa? Giuseppe Madetto. Bravo, Giuseppe Madetto, sì, quello è il maestro di mia figlia. Ma ascolta, non è tua figlia, per caso ha fatto spettacolo al teatro, per caso, a teatro comunale, quando c'era la corrida. Ciao Rugarie, tre volte ti ho salutato. Ciao Tino. Ah, Massimiliano, ha fatto spettacolo per caso? Al teatro comunale, sì, al teatro Verdi, mi pare. No, teatro comunale a Cappuccini. C'erano tutti i ballerini di Giuseppe. Io lo conosco da ragazzino, gli era morto un fratello, poveraccio, in incidente. Era morto in via Milano, Francesco. Si è morto nel 94. Lo so, con Antonio, io riconosco tutti e due. Antonio Detturi, bravo, sì. Vabbè. K Brioscia, quindi siccome Riccardo mi ha accettato l'amicizia a Facebook, ho visto che c'è Giovanni e questo Giovanni è un ballerino di quella scuola, dai. Che poi il padre sicuramente, la mamma di questo Giovanni, lo conosce anche bene Tino. Guarda che sono due gemelli me, negli punti. Scusate un attimino, se no qua tiro le Puglia. Sta pagando. Allora fa vedere, non te li macchi. Ciao T, a più tardi. Ciao. Mandami l'amicizia su Instagram. Oh, va. Riccardi. Come ti chiamo su Instagram? Cosa? Ho detto io non so come vi chiamo su Instagram. Anche io ci sono su Instagram. Riccardi. Adesso te la chiedo l'amicizia. Te la chiedo su Instagram. Veloce, quando ci con la cosa scatta. Se avessi spagnolo che se la rivende a manettone. Però tutto lo giro. E mia figlia ha iniziato le gare, casa e poi si è bloccata per il suo coronavirus. Io chiamo coronavirus. Per un rompimento di balle, scusando la frase, cazzo, mamma mia, va. Adesso da lunedì ti puoi spostare come cavolo vuoi, però la mascherina sempre appresso con i guanti. Signore di Porto Torres, le vorrei chiedere per messaggio se me lo manda il suo cognome. Ti mando un messaggio, Guarda, sicuramente io su Instagram mi chiamo, come fate a sapere? Non so come funziona questo Instagram, le impostazioni. C'è anche mia figlia, mio Riccardi, che ha più o meno la tua stessa età. Ah, ho capito. E comunque, cos'è? Meglio scriverlo per messaggio che non fare sapere il cognome. Poi te l'ho inviato. Ecco, ho trovato il nome, mi chiamo Luca Lugariello su Instagram. E poi c'è il nome e cognome mio, dai. Blecco. Avanti, Blecco. Buonasera a tutti di nuovo. Riccardo, guarda che mi hanno dato il tuo numero di telefono. Ti fa piacere se ti mando il mio? Certo, va bene, Claudio. Ok, grazie. Così ti metto su WhatsApp, dai. Continuate. Sì, metti anche il mio, tesoro. Riccardo, ti volevo mandare pure io tutte le mie radio che ho. Quelle radio, baracchini sono, radio non ne ho io. Il tuo tiro ce l'ho 40 anni, anzi adesso è durato anche troppo, lo cancello. Allora togli un numero così almeno non mi trovi. Sì, c'è scancello, lo cancello, scancello. Va bene, lo scancello allora Tino, va bene. Io poi fanno una catta. Andiamo. Sto cercando uno 747, chi ce l'ha di voi? Da vendere. Sto cercando? No, io i lineari li ho finiti. Cos'è, una battuta, Tino? No, sto cercando un 747 perché uno l'ho bruciato. Ma pensavo fosse una battuta perché io ce l'ho, me l'ho promesso ad Antonio Riserva. Se non viene a prenderselo la prossima settimana, lo rimetto in gioco. Ce l'ho io, nuovo in scatola, 80 euro mi dai, due anni di garanzia. Avete parlato in due, cosa hai detto, Tino? Ho detto, dalla a me che me lo prendo io, lui cosa ne fa? Oh, Tino! Ho detto io c'ho una parola solo, mi ha detto ci vediamo la prossima settimana perché questa settimana non ce la faccio, se lui la prossima settimana non viene allora lo rimetto in gioco, ok? Ehi, fammi sapere, dai. Sto guardando uno io, due anni di garanzia, 80 euro. Fine, dai. Cazzo finirà, Dopo no, per scatola, 80 euro, due anni di garanzia. Tu dillo Antonio, se lo vuole, fatti chiare amicizia lunga, lui sa tutto, se no rimane dove. Ok? Dai, ci sentiamo dopo, avanti Massimiliano. Attenzione, Claudio. Blocchiamo, va bene. Avanti Massimiliano. Sono stato zitto, ciao Clare, c'era qualche un altro che chiamava sotto. Chi è che ha chiamato sotto? Avanti. Non so se ero io, è per Claudio, una comunicazione a servizio. Ti posso chiamare Claudio? Sei a casa? Sì, sono a casa, sono rientrato adesso, mi stavo cambiando per quello. Mi allontano un attimo, chiamami Gianfranco, non ci sono problemi. Riprendi Massimiliano, Tino, chiama Antonio e dille se lo vuole, va bene, io lo aspetto, se non lo vuole me lo prendo, perché ci sono anche altre persone che lo vogliono, ok? Ci sentiamo dopo, vai Massimiliano. Ok, va bene. Non lo so, se lo vuoi ti do quello a 300, lo vuoi? Vale. Sì, ma pagherò allora. Sì, quando finirai mi dirai cosa te la futti. Allora sì. Ti do anche l'alimentatore a 24, bene va. Ma perché sento un rumore sotto con questa radio? Quando parlate che... Oh Massimo. Oh ya. Ma te l'ha dato poi a proposito dell'alimentatore? Te l'ha dato Gavino? No, me non mi ha detto niente, no, non si è neanche fatto sentire. Ho sentito l'altro giorno in radio che l'ha sistemato, ma a me non mi ha dato nulla ancora. Magari non lo vorresti sentire più tu, allora cosa ha combinato. No, mi ha detto che è pronto, sicuramente te lo scenderà sabato, non lo so. Vabbè, ha detto che è pronto e funziona perfettamente, e che è anche molto silenzioso rispetto a quello lì, capito? Provalo Massimiliano, abbiamo fatto l'operazione per provarlo, se va bene, scusa, usi quello, se te l'ha giurato, trattalo. È positivo, adesso non lo so, domani me lo porterà. Adesso domani mattina mi provo a montare quella cosa là, quell'antenna. E poi se me lo porta piazzerò quello e lo proviamo là. Se è meglio di questo lascerò questo e poi già ci metterò d'accordo, il problema non ce n'è. Ok? Va bene Massimi, aspetta Gianfranco. Va bene Massimi, dai, fammi sapere. Un attimo sono al telefono con Gianfranco, riprendi Massimiliano. Ehi, ti devo chiedere anche poi un'altra gentilezza. Adesso vai al telefono e poi ti devo chiedere anche un'altra cosettina, ok, che riguarda proprio te, là. Un microfono più che altro, non tanto te. Avanti Tino. State sempre smercendi. Smercendi, in poche parole mi hanno regalato un microfono, aspetta ce l'ho qua, si chiama Alan F16, ok, preamplificato, quello da palmo, c'ha il bip, c'ha tutto, e però quando sono andato a aprire, a mettergli la batteria, c'ha solo ed esclusivamente l'attacco, quello per agganciare la batteria, ma non ci sono i fili. Volevo capire se mi faceva una foto dove sono attaccati i fili, capito? Perché non so dove saldarli. Bene, andate. Va bene, no, io vorrei, devo fare pure un Zodiac, se conosci qualcuno che lo vuole, diciamo che sicuramente è toccato i watt, però te lo faccio sentire con il più 4 se vuoi. E mi sa, l'ho sentito anche ieri, no? Guarda che c'è un bel CNC 801 a 120 euro in vendita, nuovo, se ti interessa. Guarda che c'è un Galaxy Uranus, bello, nuovo, a 100 euro in vendita. Beh, quello è bello, quello di Eugenio è bella veramente la radio. A quanto arriva? 29, 30, quanto arriva quella radio oggi? 29,990, anzi 29,990. Vai Riccardi, riprendi, è bella comunque la radio di Coso, di Eugenio, Sentire la continua, bella radio. Vai Ricca. Ce ne ho 10 a vendere, Massimiliano. Cos'è? Aspetta. Eccolo qua. Ma ne ho un radio così, non me ne frega niente, voglio vendere per recuperare qualche soldino, capito? Eugenio, ma sei tu questo Eugenio Harley? Guarda, la mia foto, il profilo sono... c'è il simbolo dei Sons of Anarchy. E nera, sì, penso che sia... sì, credo che sia io, credo. No, sei tu perché sei... non so se piace, se sei da nuovo giovane, non lo so, perché c'è la foto della tua Harley con te in sella. La Tara sta chiamando la Tirrina. Ascolta, no, il mio profilo ci sono io col cappuccio, col camper pieno di neve dietro. Ma quello è su WhatsApp? No, anche su Facebook. Ma che mi hai detto su Instagram? Sì, su Instagram è quella lì, sì. Capito. No, adesso devo metto anche su Facebook, da, facciamo tutto. Vai. C'è su, grazie, non ti la mette più Marco Ventesi in registra, vai a agganciare la Tirrenia, vai. No, ha chiamato alla mezz'ora, se ne sta andando. Che Tirrenia, oggi, va bene. Com'è una frequenza, 156-600? 156-600, meno schiacciate ragazzi, la siete andata. Faccio il servitore io. Ah, ok. Non mi permetterei mai, non so che non si può. Ma io, guarda che c'è Costanzo, vai Costanzo. Sì, Sì, è Costanzo. Costa, hai attaccato la radio. Costanzo, ci sei? Poi c'è un dubbio. Osacci. Beh, signore, vai, mi devo allontanare che vado a farmi la voce. Sentirà più tardi dal caso, eh. No, non vi accavallate salutando, ciao. Ciao Tino, ci sentiamo, vai. Via, ciao, ciao. Io già entro magari anche più tardi, che oggi domani non si lavora, quindi magari più tardi già entro. E vediamo, vai, se coincide che devo fare due pisciolini. È vero, va bene, già sto arrivando, non c'è problema, già sto con i bidi, dopo la mano. C'è problema, oi, se ce n'è si offre, se non ce n'è si mangia quello che c'è. Eh no, spine non le voglio. Già lo sai. Va bene, qua che mi preparo, ciao, più tardi. Costa, no, non si intende se. E oggi quindi ti tocca stanotte? L'altro giorno mi è andata bene, ma stanotte mi fa un po' male. Stanotte mi fa un po' male perché come finisco questa o l'altra alle 4. Alle 4? Di mattina? Ehi. Ma domani poi tutto il giorno non ci fai. No, e poi ne ho un'altra alle 11. Picca, boh, e tanto andi in campo e dormi vivi. Infatti, devo scendere in campo. Perché ti ripeto, finita questa, poi ho l'altra alle 4 e poi ne ho una alle 11 del mattino. Quindi aspetta, guarda. E oggi mi è andata male. L'altro giorno mi è andata bene che alle 10:10 avevamo finito. Ma come mai stai entrando così in ritardo? Perché ha toccato tre porti. Ha fatto Genova, Livorno, Livorno, Olbia, Olbia, Cagliari, Cagliari e Paolo Torres. Aspetta. Avanti Luca. Scusate un attimo, faccio una prova su una scheda che devo fare per essere accende. Avanti, scusate. Ecco. Oh, sono rientrato, c'è qualcuno ancora? Ho preso Massimiliano, Luca, poi chi c'è? Sì, aspetta un secondo che c'è stato anche un break. Avanti il break. Pronto, buonasera a tutti. Ehi, Costa, K, buonasera, ben sentito. Sì, va dai, saluto tutta la ruota, non so chi ci sia. Comunque, te a te Massimiliano e chi tutto c'è, dai. Ehi, avrei il suo spagnolo, grazie a Mazzetti. Allora c'è Riccardo, Roberto Quadrato, Luca Riello, Eugenio, Tino che è andato a accendere il fuoco per cucinare due pesci, Claudio che ha il telefono, dai, vai tu. Positivo, dai, ciao Luca, ciao Tino, ciao Riccardino, ciao Claudio, ciao a tutti, ciao Eugenio, dai. Luca, lo senti a cosa, a Costa? Sì, io qua ma io gli spingi un bel, dice che gli ha cambiato la cassa, comunque si già va bene, si sente bene. Una bella radio. E poi dice già gli ha cambiato la cassa, ma una radio allucinante, già ci sei, doppio room, ci sei. Non c'è. Sì, già si sei a posto, va bene. A me mi ascolta Costanzo, ciao Costanzo, ben sentito. Massimino, cosa mi stavi dicendo? Aspetta un po'. Ciao Claudio, ben sentito. Perdonate l'intromissione, c'era Massimiliano, mi dovevi fare qualche notizia, Massimiliano. Sì, vai un attimino alle 15. Sì, saluto Costanzo, un attimo alle 15. Costanzo, buonasera, perché sei così basso in radio? Sto usando una radio originale. Ma cosa sei col camion? No, a casa sono. No, tu ti sento basso, il segnale c'è ma la radio è bassa. Allora, se ti interessa, per il momento, abbatto alle 23 da Nafre. Vabbè, tanto lunedì niente, dai, devo aspettare a martedì a lavorare, perché ne arrivano un po' stasera, un po' lunedì, e quindi la cosa è amara. Ma chi è la moneta, ciao? Non mi interessa. Su Instagram che foto hai? Io. Eia. Costa, mi senti? Ma dove sta modulando Costanzo? Quello di San Camillo? Ehi, a San Camillo. Riccardi! Che foto hai su Instagram? Non me lo ricordo neanche io. Certo, di sbattere a Claudio e sono sul 15. Eugenio, è contagiato, non mi ricordo più che foto su Instagram. In gamba. Ma Costanzo, mi ascolta, ci sei Costanzo? Ehi, qua sono. Pensavo che non mi ascoltassi perché ti ho rilanciato un paio di volte. Roberto, ciao da questa parte. Ciao Robby, buonasera. Costa, ma non è che sei con Machighi? Come bascia, esci, bocca poverza. Fa un passaggio più lungo, c'è tanti buchi anche a Claudio appresso, fa un passaggio. Senti un po', 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. E questa è una porta LC, non è stata mai aperta. Tornati, via. Bene, bene. Luca, quanti cosa ti dà quel baracchino che c'è? Cosa? Qua il mio? Quello di Luca, no, scusa Massimiliano, quanti vatti ti dà il baracchino tuo, effettivi Lu? Modulati 20 lo stavo dicendo, 20 watt. No, di portata. Di portata non lo so, fai 10-12. No, perché sto facendo il confronto con Riccardino. Allora, Riccardino adesso, a parte te, sei, Riccardo è il segnale più, vabbè, senza considerare quelli che c'ho vicino, è il segnale più forte. Lui sta uscendo con 5 watt, che poi effettivi saranno meno di 5. Ieri attaccato è arrivato 9+35, lui arriva a 9,20 spaccato. Infatti volevo fare il confronto con te. Tutti gli altri gli arriva più forte, Riccardo. No. Da me 9,10 con picchi quasi a 15, 9,12, 9,13. Diciamo che mi arriva un po' più basso di Natalino, però non c'è confronto. Luca qua è 9,30, Gianni 9,20, Giulio 9,20, sono tutti molto più alti di lui, nonostante sia più vicino, evidentemente per me è negativo, però il segnale non è il più alto, da te sì, ma qua no. Luca di tutti i segnali, considerando la lontananza, è il più forte di tutti, è 9,30. Riccardino è 9,20 spaccato, ieri ha attaccato, vabbè, la Saturno era 9,35. E il segnale di coso? Di Marco Condor. Poi Marco quando attacca arriva a 9,40, poi più alto di luce, numero 1 Claudio, Pomponio e coso? L'altro come si chiama? Giovanni Bracco, che lui arriva a 9,50. Vabbè, questo discorso non finirà mai all'infinito di farlo. Come fare comparazioni con me, con Antonello? Puoi fare comparazioni con chi ti arriva, io non ho detto a te Antonello, io sto dicendo ad esempio Massimiliano per essere lì punti mi arriva leggermente più forte di Giulio, ok? Giulio arriva un pochino più basso, di quelli del latte dolce, di quelli proprio della parte bassa del latte dolce, il più forte di tutti che mi arriva dal latte dolce è Tore Squaro, a me, sto parlando a me. Degli altri a salire, il più forte di tutti, di quelli sempre a salire dalla Teroce, quindi dopo Gianni, è Marco Condor, liscio, non con linea attaccato, liscio. Quindi tu devi guardare il segnale, le comparazioni devi fare con quelli, non con me, con capito, quelli che c'hai lontano, quelli che è lontano. Aspetta, a parte te Marco, Giovanni e Pomponio, quelli non li consideriamo, però di quelli lontani, l'unico che passa a Riccardino è Luca. Però mi ha detto che c'ha qualche watt in più, per cui è anche logico il discorso. Però doppio rumo normale, Massimiliano, tutti i dati sono tutti più bassi di coso di Riccardo, anche se arrivano forti, lo stesso 9,15, 9,20 qualcuno, poco meno di 9,20. Riccardo arriva a 9,20 spaccato e c'ha il microfono che diciamo che non spinge mai di radio come loro. Io non ho un microfono amplificato, questo è un classico CTE. Dal furgone CC7. Ciao, ci sentiamo. Che ora mi attrezzo per affrontare la nottata. Ciao! Ciao Luigi, buon lavoro, dai, ci sentiamo prossimamente o se no direttamente lunedì. Ciao Luigi. Allora, va bene, te lo ripeto. A Riccardino lo passa, Massimiliano dagli punti, Giulio dagli punti, tutti quelli del latte dolce, ok? L'unico che non lo passa a Riccardino è Eugenio, ok? E Claudio Di Muros, che sono lì, il segnale più o meno è uguale. Gli altri, Giulio, Massimiliano, liscio, Massimiliano quando attacca arriva a 9,40, poi questo qua liscio, tutti hanno il segnale più alto, tutti. Dagli punti, quindi Giulio e Massimiliano, a Torre Squalo, dalle latte dolce che è quello che parla con noi, compresi tutti, Gianni Doppio Rum, tutti. Al contrario tuo, capito? A te lo passa solo Luca, da me lo passano tutti. Ovviamente c'è un passaggio diverso. Io ieri lui era con una trentenna, aveva lo stesso forte, era in direttiva, probabilmente era indirizzata verso la parte mia, altri invece lo prendevano molto più basso. E non era diretta proprio verso la parte tua, era diretta proprio puntata Tu lo sai dove te devi puntare la Spagna, i gradi ce li hai, ma c'hai il controbox o la giri a mano questa direttiva? Controbox. E dove la giri, a quanti gradi la metti da lì tu la direttiva? Per la Spagna, non chiede a Sergio, quanti gradi la metti per la Spagna la direttiva? Ti ho colpito? Non ho capito. Ti ho colpito, ho detto a quanti gradi? gradi giri il control box, la direttiva, quanti gradi la metti per ricevere la Spagna? A nord-ovest. Non so quanti gradi è, so che è nord-ovest. Ah, perché tu c'hai lo stroller, quindi non c'hai il control box illuminato come quello che c'ho io. Tu c'hai quello piccolino, nero, che i gradi non te li dà. Se fai la brava te lo faccio io il cartoncino dei gradi, come ho fatto a Massimiliano Bulldog. Cazzo, l'ho trovato nel cassetto, quell'affare che ti avevo fatto a te, Massimiliano. Perché io ce l'avevo lo stesso, poi vabbè, non è andato a buon fine, te l'ho ridato. Ehi, è tutto dentro l'armadio. Il control box, il rotore l'ha spaccato in due, il vento, quindi ne ha giugato. Fatto un altro sistema. Va bene, ricordati che noi, perlomeno io da qua, l'antenna per la Spagna la devo girare a 270 gradi, ok? È chiaro che è nord-ovest, però 270 gradi la gradazione esatta, ricordi? Ecco perché Roberto a volte tira più forte e più debole. Chi è due giù che ha una direttiva, anche se prende la punta o la coda, il segnale è sempre più alto dell'antenna verticale, Roberto. Però il segnale di Riccardino qua è 9-10 abbondante. Però tu tieni conto, un Massimiliano usando il baracchino con 2,5 watt, arriva a 9,20 e quando parla va a 9,25, cioè sono tutti così da me, capito? Riprendi Massimiliano e fai girare. Sì, allora avrei lanciato la costanza dopo il parcheggio, va a costa, forse ha chiuso. E poi non. Vabbè, possiamo stare notte e giorno dicendo queste cose. Allora, tanto il segnale di una direttiva è diverso di una verticale, quindi è inutile che diamo i segnali con la direttiva, te la punto addosso e segnale una cosa. In verticale è diverso, sono due polarizzazioni completamente diverse. Se non mi sono spiegato bene, lui arriva a 9,20 spaccato con la verticale, con la direttiva, che me l'ha detto ieri che era in direttiva, io non lo sapevo neanche, era 9,15 in direttiva. Lui adesso sta uscendo in verticale, arriva a 9,20 spaccato. Massimiliano è poco meno di 9,20, tutti gli altri sono tutti meno di 9,20, tranne Luca che arriva 9,30. Gli altri poi quando attaccano arrivano più forti di coso, di Riccardino, quello è normale. Però a parità di potenza, secondo me, lui è quello che sta arrivando più forte di tutti qua. Sì, ma la deppa no, a me no, è al contrario di te, Massimiliano è oltre il 9,20, hai capito? Tu probabilmente sei più aperto per lui, io sono più aperto per quel pezzettino di coso, di canale che c'ha lui, non lo so, non cambia niente. Ok, la direttiva, per sapere per nord, tu basta ti guardi un'antenna parabolica e ti metti esattamente dalla parte opposta alla parabolica, sono tutti orientati a sud, il canale normale, il satellite autobuild è a 13 gradi, per cui più o meno corrisponde a 360 gradi come posizione. Tu ti centri il nord esatto e poi ti sposti dei gradi, quanto ha detto 2,70 verso la Spagna. Sì. Però devi sapere esattamente dove è il nord e poi fai ruotare il rotore, devi centrarti, se c'è una bussola elettronica o un GPS, il coso, ti metti a zero il coso, l'antenna sul rotore, esattamente a zero gradi e poi ruoti. Il nord da casa mia è la punta di Punta Scorno, ok, del faro della antenne sono orientate lì. Poi da lì, chiaramente io ho il control box illuminato con tutti i gradi, giro dove devo andare con la gradazione. Volevo salutare anche io Costanzo, cazzo, invece ce n'è andato, va bene. Chi c'è ancora poi, a parte Riccardo, Massimiliano, Brucchè? C'era Luca, c'era Tino, non so se è andato via, vai Luca. Allora, io mi sono trovato girando, il fogliettino delle connessioni del Mobico, un attimo me lo collego. Ce l'ho anch'io il connettore Mobico, lo sai Massimiliano, quel connettore che ti ho detto per che cos'era? Nel Mobico. Quello è un collettore 4 a 6, capito? Mobico. E l'altro è invece al contrario. Sono tutte e due nel Mobico. Che avanti. Fido hai. Quando ti arriva questo segnale a te, Massimiliano? È fuori Sassari. No, dimmi il segnale. 9, quasi 10. A me mi arriva 9. E qua è 9,5, vabbè, lo passate tutti. Cioè, il segnale di Eugenio. Qua è 9, quasi 9,30 qua. 9,20 qua. va, chiama quella persona a vedere quanto gli arriva, così facciamo nome e cognome, va, così non la smette. Questo segnale dell'altro giorno, là, ok, chiama quella persona, così facciamo nome e cognome, va. La sto chiamando, aspetta. Ciao, va, come sentite? Là, se è la stessa persona, facciamo nome e cognome, così tira a fine, va. Oh, qua non disturba nessuno, ma si viene attento perché lo passate alla grande tutti. L'unico che potrebbe disturbare quando c'è Bombolo è Eugenio. Però Eugenio c'ha la radio forte, per cui non credo che gli faccia niente. E basta, e quando sono segnali lontano, perché anche Alghero mi arriva più forte di lui. Non so se a voi vi disturba qualcuno, a te ti disturba qualcuno, Massimiliano? No, assolutamente, la passate tutti tranquillamente, là. Capito, la passate tutti tranquillamente. Però è lo stesso segnale dell'altro giorno, quindi è quella persona che è in alto, là, è in alto, fuori Sassari. No, Massimiliano, non arriva neanche da lui. Luca, come mai ti arriva così alto? Una domanda di riserva ce l'hai, cra. Che cazzo c'è, se ti arrivi 9.30 da me, a te, a me no, ma vuol dire che lì da te, vicino a casa tua. Qua arriva sul più, tra il 3 e il mezzo, tra il più e il 3. Ma a me mi senti? Mi copre quasi tutti, Ma mi senti a me? Assolutamente no, mi copre quasi tutti. Cioè, mi copre tutti. E allora vicino a te, dai. No, Massimiliano, è qua Sassari questa volta, dai. Oh, io ne ho sentito un'altra, addirittura stava disturbando a Luca. Non so se sia lui che mi ha riattaccato qualcosa. No, ma cosa serve, non permetto io. Canali Alfa ce l'abbiamo tutti. Cosa? Ce l'abbiamo tutti Canali Alfa. Penso proprio di sì. Andiamo qua nel Canale Alfa, là. Allora, qua mi ha mandato un messaggio Riccardino, la portante 9+20 copre a Luca e a Claudio pure. E allora è vero che ho ragione io, è lì tra Luca e Riccardo in mezzo. Come era? Riccardo, ma che a me copre? Un po' sì. Quindi è vicino a te questa portante. È in mezzo, è via Grazia Deledda. E vabbè, ti arriva solo 9 a te, là, se via Grazia Deledda. Chi? Ci arriva 9, no, io leggo nel 4.40. Non è che, cosa pensi che mi arrivino? Mi arriva 9.5 Graziano dalla Teloce. E se non ha né antenne, cosa vuoi ti dica? Cioè, vabbè, è sempre il solito discorso. Se io sono vicino a te, a casa tua, con un portatile, vado a disturbare tutto Sassari, da te. È chiaro che da me arrivi zero, però da te, perché sono vicino, se quella è una portante che è in mezzo tra Luca e Riccardo, è chiaro che a loro gli arriva 9.20, a me mi arriva 9, ma non è un'antenna grande, è qualcosa di piccolo. Quindi tra Luca e Riccardo, perché se a Luca arriva 9.30, a Riccardo arriva 9.20, quella zona lì è dal monte sicuramente allora. Monte alto, certo che sì. Sì, ma poi metta la portante e passano tutti, ma cazzo non manco, se metti la portante per disturbare, cazzo, muore un poco di vate sotto, oh. Cazzo, ma devo andare. A te manco il pelo sotto sento nulla. È chiaro che, come ho detto, ribadisco che se è vicino a Riccardo a me mi disturba, se è vicino a Luca a me mi disturba, è una cosa normale. Però qua non arriva a Santiago 9. Sì, vabbè, là, non c'è problema, lascia divertire, va. Avanti di qua. Ok, secondo me mi copre anche forte a me, che va importante. Aspetta, beh, ti mando anche un video. No, ti copre a te, vai tranquillo, non ti copre a te. Non ti copre Riccardo, a te non ti copre. Proprio io scabaredo, vai, c'è su, grazie. Alla sala andata sì oggi. Aspetta, Franco, quanto ti arriva a te? Qui passa Luca, quindi arriva più basso di Luca, quindi più lontano di lui. Quindi 9.20, invece Luca è 9.30. No, comunque Fra, questa portante è vicino a te, perché la passi al limite, quindi è vicino a te. Capo, io ho detto non è lontano, non è fuori Sassari, deve essere qua, perché io l'antenna mia è in terra e mi arriva 9.20, quindi non deve essere lontano da qua. A me mi senti Fra? Sì, trema, come si dice, la lancetta, vai di fibrillazione, però ti sento. Ho capito, vabbè, qua la passi lo stesso anche tu. Ok, posso anche aumentare se volete, comunque vi sento. Volevo fare i complimenti a Riccardo perché è la prima volta che lo sento bene. Complimenti Riccardo. Anche tu stai arrivando forte, comunque grazie Franco. E caspita, prima ti tiravo fuori proprio con le pinzette, adesso non è un segnalone, però almeno ti ascolto benissimo, dai. Complimenti ancora. Scusate l'intrusione, ma volevo solo precisare, darvi una mano, dai. Ascolta, sto pensando che sia Ghisio Buzzinoso, Ghisio Binghinoso o Massimiliano, vicino a casa di Bombolo. No, non ci arriva qui quello vicino a casa di Bombolo. Manco qua, perché io non ho mai, mai sentito. Comunque Santiago no, fregate me. Hai fatto un brodo, vai. Un brodo di Gigio, vai, come ti dici, di Massimiliano, pisce e cocca, di. C'è su, grazie. Che paura, va. E niente, va. Dunque, Costanzo vi saluta a tutti, mi ha mandato un messaggio e ha dovuto staccare così, vi saluta a tutti quanti, E tu contraccambia di Radio Claudio, volevo salutarlo, ma non fa niente, dai, già va bene così. Kappa, Luca Rie, va, riprendi e fai girare. Mi ha mandato il video, Claudio, a te ti disturba parecchio, per cui ti disturberà tutti noi. Di tutti noi. Certo, se te l'ho detto, sei vicino a lui, è chiaro che si disturba, però agli altri non le fa niente qua. Perché lì, tra Luca e quella zona, la zona del monte, no, non serve a niente comportarsi in questa maniera. Può essere anche al di fuori con l'apertura verso quella zona, ma assolutamente. Vabbè, si stancherà, cosa vuoi ti dica? Io ascolto tutti, non mi dà nessun problema, magari quelli che sono giù, tipo Luca e Coso, Riccardo, magari di lì si sente qualche problema, ma in questo momento non la sto più sentendo, speriamo che sia andata a mangiare o che stia facendo qualcos'altro, cosa vuoi ti dica? Vai, ma ci vediamo. Il primo caso che si marcisce quel dito che c'ha, che gliele taglino la mano che va in cancrena. Vabbè, ci metto poco io a montare l'antenna, vedi che non ce n'è problema né su Luca né su Riccardino. C'ho anch'io altri elementi e quindi lo sai. Non è più buon gassaio a montare, è che mi dispiace giocare con queste cose perché non mi sono comprato le direttive per sprecare in 27 per un semplice stronzo o coglione che sia, ha detto in parole prof, quindi lasciamo perdere. Va bene, vai. Non lo passi, devi mettere avanti per passare a Claudio, non hai capito? Sole, se mi stai ascoltando, già mi stai ascoltando però. Sì, non ti fa niente, Riccardo, lo crepi, oi. Devi mettere avanti a passare a Claudio, la bocca a te, Claudio. Va bene, là, comunque domani piazzo quella là se riesco, perché la metto un po' bassina, là, perché non c'ho palo, la metto un po' bassa, là, ma non mi interessa, va bene che è un po' bassina momentaneamente. No, lo sai perché l'ho detto, perché cosa? Franco lo annientava di brutto, lo sentivo. Che lì vicino a lui, là, già va bene così. Riccardo, se è vicino a te è così, capito, però... lui copre a noi perché è vicino a te, ma tu qua loro passi, no, non ti fa niente. Ma è possibile che sia qualche paesotto vicino che questo sta spingendo con qualcosa qua? No, cercare paesotti, perché a me i paesotti quando spingono mi arrivi di consegnare il doio. Se tu consideri che Antonello Barracuda a me quando attacca mi arrivano 9:30, liscio mi arrivano 9:20, lasciando perdere Muros, eccetera, perché non c'ha l'attrezzatura, ma a me qualunque paese che io vedo, anche Osero, che sia Osero, che mi pare ci sia uno, due cibilli, forse uno, quando attaccano arrivano forte, questo è un segnale lì in mezzo a loro, perché a me da Lucca sono pochi che mi passano, mi dà fastidio solo Marco Condor perché sono vicini, ma per il resto da Lucca non ce n'è per nessuno, quindi che mi passi a me, io ho 20 watt e 40 modulati con 440, quindi vedi tu, fai uno più uno. No, io parlavo dall'altra parte, dalla parte di Sorso, qualche campagna di lì, sto dicendo. Sorso, ma a Sorso già arrivi 9:30, a Sorso c'è Vannino e Franco, già, non c'è nessuno, i segnali anche quando attaccano tutte e due non arrivano più di 9:05. Sono fermi lì, questo non è un segnale, a parte il fatto che da Riccardo manco, ma Franco manco lo sente Riccardo, quindi no, è lì in mezzo, che grazie delle da alto, dai. No, io sto pensando a qualche campagna di lì andando verso Logulento, quella zona lì, quella zona. No, avrebbe coperto anche a me da Massimiliano, e Massimiliano è tutto aperto lì, ma stai scherzando? Scusate se interrompo, come cazzo di servizio per Claudio domani è negativo, c'ho un appuntamento fuori e me ne sono scordato, o domani sera o domenica mattina. No, domenica mattina di sera non esco, Gianfra, domenica mattina ti chiamo, vai, ci vediamo domenica mattina. Ok, perfetto, grazie, buonasera a tutti. Ciao Gianfra, ci aggiorniamo domenica mattina, ok? Un attimo, Massimiliano. Cosa ti provendi, le portanti? Le provendo, venendo a rivito, boh. O passi anche tu. Ce la facciamo a fare la bavi o cosa dobbiamo fare? Non lo so, fatemi capire. Questo è forte, questo è 925, questo schiaccia a tutti tranne che a Luca. Macchina è. Che è questo 925? Dove stai leggendo, Roberto? La portante fissa era 925, fissa, ha superato a Riccardino, non a Luca, che Luca è 9 più 3. C'è qualcuno che non sta uscendo dai nostri, non ne ho io a segnare a 925. In macchina è, adesso mi è arrivato forte. In macchina? Allora, sei in macchina, si gioca in macchina. Ma no, se ero io che stavo chiamando col Mobico, cazzo, se fate poco impresa, non mi sentivate in radio? Ma infatti la giudica Roberto, cazzo, io segnali così, non ne ho. No, non esci. Ok, dai, un attimino sposto il filo. Cazzo diavolo, boh, ma se vai a sultarmi a tanto, cazzo, io ero già pronto a commontare l'antenna, che... Aspetta, come è passato, se stavi parlando insieme a Claudio? È passato Claudio. Oh, mamma mia, come sto, cazzo, Luca, è bello rompimento, mi sento mubico, cazzo, ma pure il fogo. Oh, Massimiliano, che differenza c'è tra me e Roberto? Ho fatto a parlare in due. Metti Roberto a 20 watt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100. Passa a Claudio. A 20 watt sì, Roberto. Sempre uguale, io non tocco niente, sempre 20. Ecco, tra giochio Roberto, siete alla pari proprio. Oh, e lui che basta Claudio lo schiaccia completamente. Ma oh, Luca, sempre lo stesso discorso che devo fare. È più vicino a te, però non posso giocare, ma io ho tanti metodi per giocare, capito? Non è che posso giocare con 20 watt. Posso giocare rispetto a lui, sollevando la potenza, cambiando antenna, girandotela sopra. Posso fare qualsiasi tipo di cosa. Vabbè, da domani vi compro la direttiva anche io, Te la regalo io, carissimo. Dobbiamo solo assemblarla. Non è il problema. No, l'assembliamo. Io ne ho due. Una è montata, ma me l'ha modificata Marco per i 10 metri e quindi devo usare l'accordatore che a voi non idrato mai, che stazione non ha. Però già funge, l'altra invece è da assemblare. Fammi che mi piace due manto, fammi che posso male. Cambio un attimino il radio. Ti piace due manto va accoppiate? E anche quello ho fatto io una volta. Non l'ho mai fatto, però io l'ho fatto per altre cose, l'accoppiamento di antenne e ci avevi il doppio del guadagno. Bisogna provare a vedere come fa. No, io in 27 no, io ci avevo l'accoppiatore d'antenna però per le V e per le U. Avevo 2X300 con l'accoppiatore d'antenna. E ti dico che i risultati non erano, forse sempre per la posizione, perché sono talmente alto che no, non vedevo differenza. Claudio, dimmi, guarda questo segnale, come va bene, può andare? 9,20 con picchi a 25, sì. Ok, da, questa è l'altra antenna, bassa, 2 metri. No, non me lo dire. Non me lo dire, no. Minchia Massimiliano, 9 più 20 con picchi positivi a 9,25. Allora, questo è l'altra antenna, diciamo che è 2 metri più bassa dell'altra. Massimiliano, ce la giocano, non lo so chi è più forte. Non lo so chi è più forte, puoi fare la comparazione? È prima una e poi l'altra? Posso fare anche la comparazione, non è un problema. Allora, questa l'ho già visto, cambia con l'altra? Questa è l'altra, guarda un po', 1, 2, 3, prova radio. No. Non ci siamo Massimiliano. Allora, col K, 9,20 con picchi quasi a 25, per dirti la giusta. Con questa radio qua e con quella con la Mantova sei neanche 9,20 con picchi a 9,22. Prepara l'altra, se stai facendo le cose giuste, che non mi stai prendendo in giro. Vabbè, Class, questo c'ha un pochino più di watt dell'altro, ricordiamocelo. Lo so, però cazzo, io vedo la differenza. Lo so che vedi la differenza, perché giustamente questo c'ha già 20 watt di portante bianca e una settantina, 80 modulati, capito? Vabbè, però la differenza c'è. Se mi stai dicendo la verità, io sono sicuro che quell'antenna lì, all'altezza della Mantova, prevale di brutto. Non è all'altezza della Mantova, ti sto dicendo che è un palo sopra un palo da 2 metri, là. Oh, Robè, da te cambiamento c'è da questa radio all'altra, come segnale? C'è cambiamento, però ti stanno sovramodulando, Massi Villa, ti sento sotto. No, qua no, c'è una portante a 9,10 sotto. Cazzo, oggi ve la vedi con la prova della volta? Ancora non avete capito che non andate da nessuna parte. Ma mi stanno mettendo la portante, non vuole vedere, non ci se ne bucano. Sveglia, qua guadagni 5 punti, da 9,15 passi a 9,20, quando sposti l'antenna o cosa fai non lo so. No, tu mi devi dire, questa radio c'ha un'antenna agganciata e sto usando il 44, ok, con 20 watt di portante bianca e 70 modulati, ok? Si stanno sovramodulando, Massimiliano, la voce si sente, però un segnale un po' più forte. Ho capito già che ho questa portante, ma guarda, ne sono non sicuro, al 1000 per 1000. Ma facciamo continuare, poi faccio il 9. Oh, Robè, a me non le fa niente, lo disintegra. Massimiliano arriva alla portante 9,10, cazzo, c'hai questi segnali tu allucinanti, cazzo, pare che sei il doppio di me, cazzo, boh, c'hai questi varchi dove ricevi tutta questa merda, ho capito. Massimiliano è 9,20, la portante 9,10, come faccio a modularlo da te, cazzo, boh. Massimiliano è quasi 9,20 nell'ultimo passaggio e questo era un peluzzino un po' più forte di lui. I 9,20? Ma allora è vicino a casa Doria, ma cosa vuoi ti dica? Qua è 9,10 la portante. Massimiliano non ha niente, non lo sento neanche. Comunque Massimiliano, la differenza l'ho vista io. C'è quasi 5 punti S in più. Vabbè, va, comunque la portante è vicino a Luca, va. Vabbè, la portante che sia vicino a Luca o meno, ancora non è compreso che non fate né nulla a nessuno. Che c'è 4 guglioni che sono rividi. Questo coronavirus, cazzo, doveva ammazzare le persone e invece li ha resumate, cazzo. Così è lui, sbagliando questo. Lascialo fare, ho capito già chi è. Ne è sicuro, perché quel segnale lì, sono pochi segnali, sono pochissimi. Ammazzare non è per coronavirus, ragazzi. Ma adesso è più forte di prima, perché prima era 9,5, quasi 9,10, adesso è arrivato a più di 9,20. Ma non vi fa niente, a casa mia non vi fa niente, nulla, zero, anche Luca passa. È chiaro che da Luca magari non passiamo, ma non me ne affutti nulla. No, claro, non ti arrabbiarci, già stiamo parlando comunque, era soltanto un'osservazione per capire che si diverte, boh, a me non me ne affutti nulla. Se poi non mi sentono, pazienza. Ma io passiamo la tua cavalleria Alfa, scusa. Ma io andiamo a 95, vai. 27.095. Vabbè, c'è il ritardino, lui non ci raggiunge. Come non ci raggiunge? Già ci raggiunge, viene il canale 27.095. Devi aggiungere 10 kg se ho ricordi. Può aggiungere solo massimo 5 kg. 5 e andiamo a 85. Vai 85. Fino al canale 80 e posso aggiungere 5 kHz. Tu in questo canale aggiungi solo i 5 kHz. Ah, ok. Aggiungi 5 kHz. Ci siamo? Non me ne sono manco accorto. Sì, sì, io ho a posto. 85 abbiamo detto, 27.085, canale Alfa. Ma lasciate 5 kHz, sono 10 kHz. Alfa questo. 0.85, non 0.95. 0.85. 0.85, non 0.95. 0.85. Luca, ci sei? Sì, però questo qua è canale, ma 10 kHz, non 5. Ma lì non mi risiedi i denti, questo è il canale 11 normale, mi. Anche secondo me questo non è alfa, mi. L'11 alfa, cioè spostaci di 11 e sono le 10 kHz. Cazzo, allora ho detto bene, l'alfa è 95, non 85. Confermo. Io ci sono, prova. Io ci sono. Adesso questo qua è l'11 alfa. Confermo. Ok, ok, 95, dai, però io ve devo lasciare ragazzi perché devo andare a cenare, dai, che è già pronto, non me ne ero accorto che sono 9 meno un 4, Luca, ma chi è vicino a casa tua? Va, non ammettere, però magari lui gli Alfa non ce li ha. Chi non ha infatti Alfa, non lo vecchio invece. Mandamelo su WhatsApp, giusto così per capirmi, Luca, tanto magari non lo conosco neanche. Comunque ci siamo tutti qua, 095, Riccardi ci sei? Riccardi no, sicuramente non ci è riuscito, ma sì, io ve devo lasciare, dai. Che mi hanno chiamato a cena, sono 9:15, quasi 10:00. Se ci siete ci aggiorniamo dopo. Comunque, i sabotanti hanno fatto, manco non l'inghilunguru, manco la rubassero. Ci sentiamo dopo, ciao a tutti, buona cena. Ciao Cla, ben sentito, dai. Ci sentiamo, buona carica e buon tutto, va. Ciao Cla, un abbraccio a tutti e buona carica. Vabbè, ma gli altri come sono, scusa? A 0,90. Cazzo, ma lo sono rincoglionito, mi sono rincoglionito. No, io sono a 0,90, io ho i 5 kHz, non ho l'alfa. Comunque la portante qui era 9:15. Giusto, giusto. Quindi più vicino a Lucca. Ho un attimo di bianco, sto parlando con Riccardino. L'ha trovato Riccardino? Massimiliano, riesci a copiarmi? Sono 5 kHz fuori però. Sì, sì, riesco a copiarti anche bene. Ho detto, quando tu usavi l'antenna normale, cioè 9:15 qua, in poche parole, era la portante. Quando non era attaccata era 9:5, come se fosse un lineretto tipo da 100. Allora, stavo andando, una con la Mantova, seguimi, e con questa radio, l'altra stavo andando con quella Sirio e K. Ma io non so che attrezzatura abbiano le persone. Poi quella zona che c'è lì, vicino a Lucca, tra Riccardo e Lucca, chi c'è? A meno che non sia uno in macchina, amico, mi ha detto Natalino, Massimiliano. No, in macchina, tranquillo Marco, non in macchina. È a caso. Che senso avrebbe però? Cioè, alla fine lì stavamo. Io stavo ascoltando, poi gli stavate dando troppa importanza, magari si è illuso oppure che vi copriva tutti. Facciamo 27.75 perché in caso si può spostare solo di 5 kHz. E perché Marco non è solo di 5 kHz? Marco è qua a me. Confermo, Robè, sono a 0,90. Più o meno, kHz più, kHz meno, Va bene, comunque sì, troppa gente ha fatto entrare il coronavirus, ma Massimiliano ha detto tra noi, era qualcuno che c'era anche prima del coronavirus. Marco, ti sto dicendo che, allora, cioè detto un po' in parole un po' brutte, è diventato un puttanaio il canale 10, no? Diciamo così. Né più né meno voglio mettere nomi né cognomi né nulla, però è diventato uno schifo, perché prima potevi fare un QSO bello, tranquillo, tra persone grandi, ma va, non fai più su cose, va, è diventato uno schifo. Comunque non è giustamente, non è quella di Bombolo, la portante qua non arriva proprio alla portante che arriva a Bombolo, perché Bombolo sente qualcuno col portatile che è però attaccato a casa sua. Questa era, diciamo, discreta, non fortissima, però cacchio, a te ti scocciava già, lo sai, anche con l'antenna quella più forte, disturbava un po'. A Luca non ne parliamo, perché a lui era 9:30, sicuramente non passavo nemmeno io mi. Perché sicuramente era vicino a lui, capito Marco? Dai, ritorniamo al canale 10 normale, là, visto che Riccardo non può venire qua. Eia. Ci siete? Io sì. Ok, là, siamo arrivati lì, perché anche Marco si era spostato nell'11 di 5 kHz. E poteva venire anche Riccardo lì. Ah, non sono 5, sono 10, ma si vede. No, si è spostato di 5, e lo sentivo benissimo. Sono 10. Robè, io non ho il tastino 10 kHz, io ero sull'11 più 5 kHz, però spostando tutto il clarifier pure riuscivo a sentire Massimiliano, solo che sarò stato spostato di brutto. Comunque Robè, per la cronaca, qui la portante è 9 più 15, quando era più forte, quando era meno forte 9 più 5. Ok, allora qua quando era debole era 9+5, quando ha attaccato superava i 9+20, per cui a Massimiliano si sentiva sotto, però lo superava. Comunque il canale alfa è 27.095, deve andare di 10 rispetto al canale 11, tu ti sei spostato di 5, più ha usato il delta tune o il clarifier per spostarsi. Sì, questo non c'è, in questo momento 10 kHz non ci sono. Cioè in questo apparato proprio non ci sono, anche se lo fai espanso 240 canali, non c'è il 10 kHz. Ci hanno messo il canale 9, no, quelle cose inutili, vabbè, giustamente. Dai, riprendete voi che io sto pulendo per terra, ciao. Ok, c'era Riccardino, avanti se c'è. Sì, ci sono, adesso sono passato allo stalker perché l'ho attaccato. Comunque, se facevate vedere così non avevo problema a farlo le altre volte. Riprendo io, Riccardi, ma sei a 220? No, non sono a 220, sono a 12. E allora stanno mettendo la portante anche a te. Buonasera. Ok, avanti. Ciao, sei in basso di radio, come? E adesso 1, 2, 3. Chi sei? Torino. Ah, adesso sì, no, mi sarà la voce di Massimiliano. Prima non stavo uscendo di radio, adesso sta uscendo bene, forte e chiara. Prima eri tutto compresso, non si capiva niente. Ma è che chi è a zero qua ci avevo? Bianco per me. Sì, ah. Massimiliano, ancora ci sei? Sì, sì, sono qua. Ciao, Torino. Ciao, Massimiliano. Ho sentito che c'è qualche portante in giro. Sì, io. Ma mi copre anche a me, come segnale, come lo so che lo stesso segnale tuo. Ah, io non sono, tranquillo, che sarei poco importante io. Lo vuoi dire, sei tu, io sto dicendo, è uguale precisamente col segnale, non sto dicendo che sei tu, no. Ok, non avrei nessun interesse a mettere importante. Tanto male, ma avrei acceso il paracchio, guarda. Sarei guardato la TV e parte, ma per sentire i propri amici, è ovvio che accetta. No, qua è diverso il segnale. Comunque, ritornando a Massimiliano, qui cambi molto con quell'antenna, con la Sirio, aumenti parecchio. Vabbè, allora con quello aumento ed è più bassa, questa è un po' più alta e c'è anche meno watt. Vabbè, ma comunque, diciamo che va bene sia uno che l'altro, va. Sì, sì, ma è strano che renda così tanto, anche se più bassa. Comunque, a quanto mi hanno detto, diciamo che qualcosina anche superiore alla Mantova, a quanto mi hanno detto. Poi io non l'ho mai avuta, non l'ho mai provata e la sto provando, va. Ma che Sirio è? 2008. Non la conosco, adesso la guardo, riprendete. Scusa, l'informazione, ma cioè, tu hai quello di segnale la più forte di con questa Sirio 2008. Allora, ti ho fatto un passaggio prima con questa e la Mantova, poi ti ho fatto un passaggio col K e la Sirio. Ah, io pensavo che ti stia andando in coso, in direttiva, tu quando aumentavi il segnale. Hai capito? Sì, sì, scusa, stavo ascoltando un vocale che... Ok, riprendete la Torino, il mic. Ecco, non so che cosa fate a pranzo, con le antenne e cose. Mi viene che fa la posta. Via. Mi chiamano al telefono un attimo, con Rick. Ok, chi è arrivato qua? Franco, io, Luca, Massimiliano, Tonino, poi Riccardino in bianco, chi c'era altri? Ma Luca Offetta, che fine ha fatto? Stasera c'era. C'era? Sì, confermo. Ah, poi ho notizie anche di Lupo Grigio, siamo sentiti per telefono, praticamente non sta accendendo perché è in giro praticamente, sta recuperando il tempo che è rimasto a casa, quindi sta uscendo di casa, tutto lì. Però un po' rientrerà a letto. Vabbè, eravamo preoccupati, ma è successo qualcosa. Meglio così, dai, se si muove vuol dire che ha le forze per farlo. Brutto se rimane in casa perché non ce la fa. No, tranquilli, infatti l'ho chiamato per quello, per avere conferma, ha detto no, tranquilli che gli ha stato bene, grazie a Dio. Ma ci ascolta ogni tanto? Sì, a volte fa ascolto, però finché un sistema questo problema dell'antenna che arriva a basso, così fa solo ascolto. Dai, come ha fatto Riccardino, speriamo che si aggiusti anche lui. Oh, io l'ascoltavo comunque, non forte, però già l'ascoltavo. Luca, sei a... Informazione, quanto ti arrivava la portante a te? Sì, come di Torino uguale. Sottotrato. Non voglio condannare Torino, attenzione, però, come la quella di Torino per il segnale? Sottotrato. Positivo, era giusto perla. Va bene, ok. Ma Tonino è stato sempre portantista, da ragazzino. immaginami, ma guarda, scusate, ho sempre un bisoccato, non le voglio dire parolacce. No, non le dire, Tonino, non le dire parolacce, dai. KK, no, vabbè, giusto, era giusto per capire, no. Va bene, dai signori, io vi lascio, vado a fare carica, no? Ci sentiamo più tardi se coincide. Accenderò dopo, no? Tanto domani non si lavora, quindi dopo accendo, no? Ok, dai, la rilancio a Franco che farà girare per Luca, Luca farà girare a Roberto, Roberto per Claudio e Bimbo Mala. Ciao ciao. Ciao carissimo, buona carica alle prese. Io penso di non rientrare più tardi perché domani mi sveglia alle 4.